E come tutti i sabati, come dicevamo prima, sta cominciando Pump Up the Volume qui su Radio Pirata 38 e questa sera manderemo un po' di musica pescata così in giro, un po' più insolita del solito, tanto per stare un po' insieme. E così andiamo avanti con queste selezioni un po' bangheriane e per chi mi ha capito sa cosa intendo. Come avete capito, questa sera non ci andremo leggeri. Leggeri e leggere. Oh! abbiamo cominciato quindi con un po' di stress, come tutti i sabati andremo avanti per un'oretta ascoltando un pochino di quello che ci sta sulla scena oggi della musica elettronica, di quello che si può trovare disponibile su internet e fruibile liberamente, di quello che ancora si può ascoltare senza che ci venga imposto di pagare per tenere aperte le nostre orecchie. E andiamo ad ascoltare allora qualcos'altro di tutto questo mondo caramelloso, ma tanto... Andiamo ancora a qualche altra traccia di questo tipo, proveniente più o meno dallo stesso ambiente, diciamo indipendente, per quanto poi patinato e per quanto in qualche modo approdato poi sulle rotte più commerciali, e andiamo ad ascoltare un'altra traccia appunto da questo ambiente sempre caramellato e un poco salato. Uffa, uffa. Così, è così, andiamo ad ascoltare un'altra traccia ancora presa da questo universo un po' strano di chi gli piace vendersi un po' del tutto. Number two. fine for another one or two. E ci stiamo avvicinando alla fine della prima mezz'ora, quindi come al solito al giro di boa della nostra trasmissione andiamo avanti ancora con un altro paio di tracce su questo tono e poi vediamo se interverrà pronto soccorso Rave oppure no, altrimenti passiamo immediatamente al quiz oppure ci facciamo un giro nella storia e poi ripartiamo. Watch it. Adesso a sorpresa invece passiamo alla rubrica Old World Techno, che ricordiamo il quiz dell'altra settimana non ci ha preso nessuno. La traccia in questione si trattava di Who Is Elvis, l'altra non avete proprio risposto, quindi ve ne mandiamo una nuova, ovvero vecchia, proposta dal nostro VB, ed eccola qua che arriva. Beato chi se la ricorda. Dicono che è poco impegnativo, ma la cassa sta lontana, si sente. dicono che chi si ricorda il titolo di questa traccia sicuramente non può scordarsi anche gli Oompa Loompa che hanno levato i sacchetti di monnezza qua sopra. Fighting for a social state without governing or enforced authority. One radical and musical entity acting without instructions or permission. The world's hardest hardcore artist will present the root of anarchism. Now get your middle fucking fingers in the fucking air! Fuck you! When all hope fades, one man will stand. E passiamo quindi ufficialmente alla seconda mezz'ora di Pump Up the Volume con questo piccolo trailer che alla fine poi è anche un po' una zozzata, e passiamo invece alla hit della settimana, che è un remix fatto da Radium di un po' di tracce di Jack. The more you look around, the more you realize something is fucked up. Something is wrong here. War, disease, death, destruction, hunger, filth, poverty, torture, crime, corruption. Something is definitely wrong. This is not good work. If this is the best God can do, I am not impressed. Results like these do not belong on the resume of a supreme being. Can give it. Ascoltare ancora un altro paio di tracce e poi andiamo a chiudere per questa altra puntata di Pump Up the Volume. Come tutti i sabati, ve lo ricordo, dalle 9 alle 10 circa su Radio Virata 38. Si sente niente? E piano piano ci riproviamo. E te? Magico click, salvaci te. Vai e parte. Everybody knows by now, all businessmen are completely full of shit. Just the worst kind of low-life criminal cocksuckers you could ever want to run into. A fucking piece of shit businessman. You take about 100,000 of these disgusting pricks, and you throw them in a big dirt arena, and you just let them punch and pound and kick the shit out of each other until only one guy is left standing. Then you take that guy and you put him on a pedestal and you shoot him in the fucking head. We'll be right back. you on, shall we? E per chiudere vi lasciamo con un infelice remix di una traccia conosciuta. E con questo vi lasciamo, voi continuate a seguirci, ci vi do l'appuntamento alla prossima settimana e dai, forte, dai.